Oh! Oh. Oh, cambiar figura. sono il mio cor ferito è già e il dor fu che piango sì l'indoro mio sarà lo giurai la vincerò sì l'indoro mio sarà lo giurai la vincerò cento troppo